Dottor Trezzi. Una domanda intorno a un argomento che è un po' circolato in questo nostro seminario. In particolare il professor Agnelli ha parlato di una forte organizzazione cooperativistica. Ecco, io volevo fare due domande a questo proposito. La prima è questa. Se può dire qualche cosa intorno alla connessione che ci può essere, se c'è stata, tra il momento cooperativo e il momento più propriamente rivendicativo all'interno del movimento operaio cristiano. E la seconda domanda è questa, se l'esistenza di questo illustre esempio di organizzazione, come l'ha chiamato, ha avuto un qualche influsso nella sistemazione teorica del pensiero socialista. Possiamo, anche raccogliamo prima professor Lee, professor Corsini. Una breve domanda, quelle grandi assicurazioni triestine, no, che raccoglievano tanto capitale finanziario, potevano agire ed operare liberamente oltre la frontiera austro-italiana o erano limitate nella loro azione a livello ascurgico? Forse dire subito perché sì o no. Il grande capolavoro degli assicuratori triestini fu quello di riuscire ad avere dapprima il monopolio delle assicurazioni nel Regno di Sardegna, addirittura negli anni 50, a non farselo contestare quando il processo di formazione dell'Unità d'Italia si arresta provvisoriamente negli anni 60, e di rimanere in una situazione non più di monopolio, ma insomma piuttosto solida, nel momento in cui l'espansione assumeva proporzioni rilevantissime nell'impero. Certo, le posizioni delle generali e delle riunioni dell'Adriatica di sicurezza divennero più precarie quando in Italia si passò alla costituzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che cercava di raggiungere una posizione di monopolio. Quando il governo fascista decise di non mantenere questo monopolio e di ripristinare la pluralità delle assicurazioni, si disse che questo era il prezzo che il fascismo pagava al sostegno dato dagli assicuratori triestini. Certo che questi assicuratori triestini furono bravissimi nel mantenere posizioni di dominio e nel Regno d'Italia e nell'impero austro-ungarico, facendo gli irredentisti da una parte e i fedeloni dall'altra. Furono veramente dei maestri. Scusi, professor Corsini, perché è una questione che usciva un po'. Ho ascoltato evidentemente con un interesse diretto la relazione del professor Agnelli e prendo lo spunto dall'inizio della sua relazione stessa, che poi anche è anche riportato nel riassunto, quando il professor Agnelli afferma che è una impostazione dominante quella della differenziazione tra socialismo triestino e socialismo triestino. Poi il professor Agnelli ha giustamente dimostrato che sul piano delle questioni politiche di natura generale, come per esempio il suffragio universale, oltre che sulle questioni riguardanti il movimento socialista in particolare e l'organizzazione operaia, ovvero le rivendicazioni, eccetera, questa vero che differenziazione non esiste. E non so veramente se si può portare questa totale radicale negazione anche per quanto riguarda invece la posizione di fondo, che è la posizione nei confronti vero, del concetto di riassetto politico-territoriale europeo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Non voglio dire della questione della nazionalità, perché qui la questione della nazionalità e della coscienza nazionale, del senso nazionale, non ha nessuna rilevanza, né, vero, sono uguali per i socialisti triestini come per i socialisti trentini. Purtroppo io vorrei far notare una cosa, ci manca la prova del 9 per trarre delle conclusioni, vero, completamente certe e sicure. E per me la prova del 9 consiste negli avvenimenti del 1918, a cominciare da quello che è stato il congresso di Praga nel maggio del 1918, dove Pitoni ha preso posizione nei confronti della partecipazione dell'onorevole Conci, il nostro trentino, che era stato così, vabbè, clamorosamente anche avevano chiamato dopo quella che era stata tutta la polemica che aveva però avuto all'interno qui del Grande Tirolo per le sue prese di posizione, per dire la verità, ancora sul piano della contestazione contro le disposizioni amministrative, le disposizioni di polizia, non era ancora passato come da Praga fino alla fine il gruppo democristiano cattolico, allora si diceva su posizioni di netta rivendicazione nazionale. E ci manca la prova del 9 di quello che è stato il periodo tra il 16 ottobre del 1918 e il 25 ottobre del 1918, cioè tra il proclama di Carlo I d'Asburgo, vero, quando offriva ai popoli dell'impero un riassetto interno di tipo federalistico, vero, e invitandoli a comporre questi consigli nazionali, e le dichiarazioni che sono avvenute tanto in commissione degli esteri, dove ha preso la parola Pitoni, quanto nell'ultima seduta, l'ultima si può dire del 25 ottobre, perché le successive sono state delle sedute veramente formali, fino all'ultima si ricordava l'altro giorno del 12 novembre, che si è limitata semplicemente nel ricordo di Victor Adler, che era morto il giorno prima. Ora che cosa accade? Mancandoci questa prova del 9, noi ci troviamo di fronte ad una esplicita presa di posizioni di tutti i gruppi politici degli italiani soggetti all'Austria e precisamente del gruppo cattolico e del gruppo liberale ero trentino, che si erano congiunti in quello che allora era stato chiamato, con un termine che non ha niente a che fare con gli avvenimenti successivi, il fascio nazionale, a cui hanno partecipato anche i liberali dell'Istria e anche un cattolico dell'Istria, lo Spadaro mi pare, vero? E i liberali del Friuli, vero? Mentre invece il gruppo socialista di Trieste e il gruppo cattolico del Friuli, Bugato e Faiduti, vero? E Pitoni dall'altra parte, vero? Non hanno partecipato, con delle dichiarazioni estremamente interessanti. Pitoni le aveva avanzate prima nella commissione degli esteri, che si era tenuta mi pare il 17 o il 18, immediatamente dopo l'emanazione di questo proclama, vero, di Carlo I. Pitoni sosteneva questa tesi, che l'applicazione dei principi di Wilson non importava automaticamente il passaggio di Trieste all'Italia, anzi rivendicava, la tesi è interessantissima anche da un punto di vista teorico, rivendicava il diritto non solamente all'autodecisione delle nazionalità, ma anche all'autodecisione delle frazioni di nazionalità. E nel discorso è chiarissimo, propendeva, vero, per una scelta di natura politica di questo tipo, la costituzione di uno Stato libero di Trieste sotto l'egida della Società delle Nazioni. Diversa totalmente la posizione dei cattolici friulani, i quali avevano proposto attraverso l'intervento di Bugatto, vero, una quadruplice possibilità di scelta: Italia rimanere all'interno di uno Stato federale austriaco, vero, con grandi ampie autonomie, oppure addirittura entrare in quello che poteva essere lo Stato libero di Trieste, e la quarta possibilità, quella di aderire ad una costituzione dello Stato slavo. Questi sono stati, mentre, tanto per completare, ho finito, vero, la posizione del gruppo liberale e cattolico trentino, che è stata manifestata prima da Malfatti e poi da Conci, è stata esplicita, brevissima ed esplicita. Noi non entriamo neanche in discussione su quello che è stata la proposta, vero, del proclama del 16 ottobre, perché consideriamo che con la proclamazione e con l'accettazione, perché era stato accettato dall'impero, dei punti di Wilson, noi ci consideriamo ormai appartenenti allo Stato italiano. La voce del Partito Socialista Trentino, e sappiamo tutti per quali drammatici avvenimenti, non c'è in questo momento, non esiste nel Consiglio dell'Impero. E allora bisogna evidentemente ricostruire, però, con delle induzioni che provengono dalle posizioni, vero, precedenti. Ora io credo, Pavello, che una, indipendentemente, e ho finito, da quella che è l'assoluta e indiscutibile unità ideologica, sia sul piano sociale, sia sul piano organizzativo, ovvero del movimento triestino, socialista con il movimento triestino, hanno indubbiamente avuto forti influenze. Quella diversità di situazioni alla quale lei ha giustamente accennato, di natura sociale, qui mancava l'industrializzazione, qui mancava, eccetera, ma anche più di tutto la differenziazione che il Trentino vedeva la propria difficoltà politica non soltanto nei confronti di Vienna, ma anche nei confronti di Innsbruck, del Land Tirol, perché non avevamo una uguale autonomia come quella che aveva la città di Trieste, che in sostanza era un'autonomia regionale, perché la giunta comunale di Trieste funzionava come una dieta, come legislativa. Del resto, è l'ultima notazione, che ci sia stata anche questa differenziazione tra il socialismo trentino e il socialismo triestino e tutto il resto, della socialdemocrazia austriaca. Si vede proprio dalla contrapposizione di quello che è l'atteggiamento di Ellenbogen in quegli anni e da quello che è stato l'atteggiamento di Cesare Battisti. Ecco, volevo semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto, vero, che ci manca la prova del 9, vero, per concludere, cioè la prova finale. Ecco, le dichiarazioni finali sono state quelle che sono. Dottor Leonardi. Mi rilascio in parte a quanto dice il professor Corsini, non si è infatti facendo un discorso con il professor. Però volevo chiedere al professor Agnelli un chiarimento, un approfondimento, un accenno che ha fatto durante la relazione. Lei ha parlato a un certo punto di rapporti diversi all'interno del movimento socialista triestino e trentino tra le forze tipicamente politiche e quelle sindacali. Ora, da Renato Monteleone è stata sostenuta una tesi, poi ampiamente discussa, che nel socialismo trentino esisteva una duplicità di anima, un'anima sindacale e un'anima politica. Quella politica rappresentata dal popolo di Cesare Battisti, mentre quella sindacale rappresentata dall'avvenire del lavoratore di Pischer. Bene, la posizione di questi due giornali si differenzia anche notevolmente rispetto al problema nazionale. Mentre infatti tutti sappiamo qual era la posizione di Cesare Battisti, sembra che l'avvenire del lavoratore sia sempre rimasto fedele ai postulati di Prüm per quanto concerne il problema della nazionalità. Adesso sottoporrei a lei questo problema. Poi vorrei fare una piccola annotazione, sempre allacciandomi al discorso anche del professor Corsini, rispetto alla differenziazione economica che caratterizza le due regioni, quella istriana, quella Giulia e quella del Tirolo italiano. E mentre lei dice che nella regione Giulia si avviava un processo di industrializzazione, ha anche detto che qui era una regione tipicamente agricola, con caratteri prevalentemente agricoli. Ebbene, dice, nella regione Giulia Domakos ha lanciato l'idea del passaggio delle leve di potere economico da mani tedesche a mani locali. Qui invece a fare questo tipo di proposta non è stata una voce socialista, è stata invece una voce popolare, cioè di un uomo aderente al Partito Popolare, anche se alla sua frangia più impegnata dal punto di vista nazionale, è stato Emanuele Lanzerotta. E poi mentre lì la grossa organizzazione cooperativa è stata portata avanti dai socialisti, qui invece nel Tirolo, del Tirolo italiano, è stata portata avanti dai popolari. E i socialisti sono riusciti a realizzare solamente una cooperativa a Rovereto, che poi doveva diventare, ampliarsi e organizzarsi meglio, ma fino alla prima guerra mondiale ha visto solamente quello sbocco. Altri interventi? Prego. Molto brevemente, semplicemente per dare due notizie che forse possono marginalmente spostare qualche giudizio che è stato formulato. Nell'archivio Battisti esiste la lettera con cui il Gerin dà ricevuta a Battisti dell'articolo Patria e Socialismo e commenta lo trovo molto buono. Che vuol dire un totale assenso? Battisti si era iscritto nel 1993 a Firenze, l'anno scolastico 1993, ma in quell'anno avvicinò, sì, un socialista assunto molto, ma non quello che poi si è chiamato il cenacolo di via Lungo il Mugnone, e anzi l'università fiorentina lo deluse, tanto che l'anno seguente si iscrisse a Torino e contemporaneamente a Graz. A Torino probabilmente per fare un apprendistato di lotta socialista, a Graz per mettere in atto questo, perché in una lettera appunto al Mori, Battisti dice: abbiamo avuto l'incarico dal partito di Vienna di fare propaganda fra gli operai italiani immigrati in Graz. Battisti fa questa propaganda che gli provoca anche un paio di piccoli processi. L'anno successivo, anche perché l'università di Graz non lo vuole più, perché lui ha avuto questi due processi, Battisti si iscrive a Vienna e ancora al Mori scrive: vado a Vienna dove abbiamo intenzione di fondare un giornale socialista, cioè l'Avvenire. Contemporaneamente c'è una lettera di Gerina Battisti che dice: tu sarai il mio braccio destro, io ti trovo la camera vicino, la stanza, appunto, vicino alla redazione del giornale. Battisti infatti va a Vienna, dove ha un oscuro, per quello che io posso sapere, incidente con la polizia, non rimane neanche una settimana a Vienna, viene espulso dall'università di Vienna e cerca di iscriversi a Firenze. E arriva a Firenze quando già le iscrizioni sono chiuse, per cui ha qualche difficoltà a iscriversi. Ma intanto il giornale era uscito nel novembre, l'Avvenire, e sul primo numero, appunto in novembre, c'è quell'articolo Patria e Socialismo, che non può essere ispirato dalla compagnia che ha trovato poi Firenze, dal gruppo Salvini, Golfo, eccetera, che ha conosciuto il documento successivo. Questa è la notizia che io ho trovato, semplicemente, per marginale precisa. Altri, posso... No, ma prima c'era... Scusi lei. Prima lei. Professor Agnelli, se scusate, se torniamo sempre sul rapporto tra Cristini, perché ci interessa in modo particolare. No, era solo un suo chiarimento e approfondimento sulla questione che a me sembra abbastanza centrale, del convegno appunto di Trieste del maggio del 1905 tra socialisti italiani e austriaci, cioè che nel momento doveva essere socialisti italiani, austriaci e tedeschi, solo che i socialdemocratici non si fanno vedere, e che questo Bissolati se ne rammarica notevolmente. Cioè il punto che mi sembra abbastanza interessante, e qui si torna alla figura di Battisti in questo senso, un chiarimento, questo che possiamo considerare forse un primo atto di politica estera dei socialisti, questo convegno contro, praticamente finalizzato a fermare il militarismo nei rispettivi paesi, no? In cui Cesare Battisti, nel maggio del 5, alla vigilia del convegno di Trieste, sul popolo prende una posizione che a me sembra molto interessante. Cioè lui dice proprio: la lotta antimilitarista è solo accettabile quando i socialisti austriaci mostrino di avere nella monarchia la stessa influenza sulle masse, la stessa forza contro il governo che hanno i socialisti del regno, perché sarebbe supremamente ingiusto permettere che i due contendenti uno si armi mentre l'altro viene disarmato. Noi francamente non crediamo che i socialisti austriaci abbiano, e per la mancanza di omogeneità del partito e per il carattere peculiare delle razze tedesche e per la limitata partecipazione alla vita pubblica del proletariato austriaco e per il congegno medievale dello Stato entro cui devono lottare, quella forza d'agitazione che ha il Partito Socialista Italiano. Cioè mi sembra di cogliere ancora nel 5, infatti il professor Valiani aveva già messo in evidenza, veramente una sua anticipazione, che poi con la crisi bosniaca vediamo poi di fatto come i socialdemocratici e i socialisti austriaci non siano in grado di fermare gli armamenti, cioè una consapevolezza che fa della figura di Battisti, al di là della limitata storia locale del socialismo trentino, che sappiamo essere un socialismo debole come Leonardi metteva giustamente in evidenza, una figura senz'altro che non si può ricondurre solo a quegli schemi, perché ha una visione molto più ampia e addirittura profetica sulla capacità che anche la socialdemocrazia, così forte, così organizzata, abbia di fermare il militarismo. Cioè mi sembra che in questo articolo di Battisti, cioè lo spunto era. Anzitutto devo dire, e penso di avere in questo consenziente il professor Prodi e il professor Vanuska, che quando noi abbiamo delineato lo schema di questo seminario pensavamo che nel mese di ottobre si sarebbe tenuto il convegno su Battisti e quindi non abbiamo pensato a provvedere una relazione sul socialismo trentino per non anticipare su quel convegno dal quale avevamo in realtà tutto da imparare e non insegnare noi a quel convegno. Invece quel convegno è stato rimandato alla primavera prossima e quindi adesso naturalmente ci dispiace di non avere una relazione apposita sul socialismo trentino, ma le cose sono andate così. A proposito di Battisti, per confermare quello che diceva, scusi non ho capito il suo nome, sì, ecco, è giustissimo, io ho sempre sostenuto questo, perché proprio per un'esperienza vissuta, perché quando il problema dell'indipendenza nazionale contro l'oppressione è tornato sul tappeto, cioè con l'ascesa di Hitler al potere nella lotta politica in Europa, anzitutto naturalmente in Francia, ma anche altrove, alla fine con la resistenza anche in Italia, noi abbiamo riscoperto che gli argomenti con i quali combattevamo contro Hitler per l'indipendenza nazionale, difesa da socialisti, comunisti, repubblicani, a sinistra in generale, adoperavano alcuni degli argomenti che molti decenni prima Battisti e più tardi Salvemini e Bissolati, ma per primo Battisti, avevano impiegato, cioè in fondo chiedono poi la riscoperta degli argomenti di Marx e di Engels del 1848, che non c'è opposizione fra unità nazionale e fra difesa nazionale e lotta per il socialismo, e l'abbiamo anche citato, penso tutti, in quelle lotte, tant'è vero che nella resistenza c'erano anche, a parte che c'era il figlio di Battisti, ma c'erano anche delle formazioni Battisti. Naturalmente per i socialisti del tempo questo non era così pacifico, perché dal 1848 era passato molto tempo ed era passato il tempo della prima e della seconda internazionale, cioè dell'accentuazione della unità di interessi di tutti i lavoratori e si sperava l'anacronismo delle questioni nazionali. Questa argomentazione di Battisti per il convegno lì in realtà va messa in rilievo con le discussioni fra Bebel e Jaurès a proposito di come lottare contro la guerra, perché anche lì si dicevano, Bebel diceva, ma noi socialisti tedeschi siamo forti, voi francesi siete deboli, quindi se noi facessimo una sciopero generale contro la guerra questo avrebbe delle conseguenze terribili, mentre da voi sarebbe così, una cosa passeggera. Jaurès gli rispondeva, ma noi sulla politica interna francese abbiamo più influenza, nonostante che siamo molto più deboli come organizzazione operaia di voi. Quindi c'era anche un fatto contingente dell'internazionale di cui Battisti era perfettamente al corrente. Queste cose appunto bisognerà approfondirle nel convegno Battisti. Voglio ancora dire che anche lì poi bisogna sempre vedere, oltre alle risoluzioni, gli uomini. Io non veramente ho letto Monteleone, quindi anch'io so quello che Monteleone dice a proposito dell'atteggiamento di Pichel, però quando poi la guerra è scoppiata, Pichel come Battisti venne in Italia. A differenza di Battisti, Pichel poi si è spostato più a destra, tant'è vero che mentre era membro del partito di Bissolati, si differenziava da Bissolati perché lui sposò la posizione del governo italiano, che insomma voleva la frontiera sul Brennero e anche la Dalmazia, mentre vabbè, Battisti fu ebbe il martirio, non possiamo sapere, ma gli altri amici di Battisti, Bissolati e Salvemini, pur combattendo per l'italianità di Trento e di Trieste, non volevano combattere per l'italianità del Brennero o della Dalmazia, invece Pichel si spostò proprio sulle posizioni del governo italiano, cioè di di Sannino, questo dico non per criticare Pichel, perché non si critica retrospettivamente chi non ce l'ha, per dire che non sempre un atteggiamento inizialmente intransigente poi resta intransigente fino alla fine. Adesso, a proposito invece di intransigenza verso la guerra, è una cosa che vale la pena di mettere in rilievo. Il professor Agnelli ha detto, giustamente, che il Partito Socialista Triestino poi ebbe una, insomma, la maggioranza passò ai comunisti con la scissione di Livorno. In realtà, anzi, diventò comunista già nel 19, motivo per cui Pittoni lascia la carica di capo del partito e tutte le altre cariche connesse, perché la maggioranza qui è terza internazionalista comunista sin dal 19, e poi vediamo anche nel secondo dopoguerra rimane tale, il movimento operaio è rimasta maggioranza comunista dal 1919 fino ad oggi, salvo la dittatura fascista. E questo fenomeno, che oggi è molto frequente, allora in realtà in un'altra sola città italiana era così, parlo delle grandi città, Torino. Però Gramsci vince solo il congresso della sezione, perde il congresso provinciale, invece i comunisti vincono il congresso dell'intera federazione giuliana. Però in ognuno dei caratteristico che sia a Trieste che a Torino, questa prevalenza comunista più forte a Trieste, appunto, come giustamente dice il professor Agnelli, che a Torino, questa prevalenza a mio avviso va ricondotta al fatto che proprio a Trieste e a Torino, ma Torino è noto, ma Trieste è meno noto e quindi bisogna ricordarlo, il Partito Socialista fu un partito di opposizione alla guerra. In tutto l'impero austro-ungarico due sole voci si levarono contro la guerra, i socialisti austriaci e viennesi, come Vandrosch ha ricordato, furono per i crediti militari per la difesa nazionale, contrario il lavoratore di Trieste e contraria la socialdemocrazia ungherese a Budapest. E in effetti noi vediamo che da questa lotta contro la guerra viene lo sciopero generale del 1918, che proprio avviene a Budapest, assunse i caratteri più radicali, e viene la prevalenza dei comunisti nel movimento operaio, anzi insieme al Partito Socialista, proprio a Trieste e a Budapest. Cioè qui il comunismo, come del resto a Torino e come del resto in Ungheria, a Trieste nasce dalla posizione alla guerra, e tant'è vero naturalmente quello favore della rivoluzione russa, tant'è vero che i primi comunisti triestini nel 1918, ancora nel Partito Socialista, venivano chiamati bolscevichi di guerra. Posso dire anche io, fare due o tre domande molto brevi. Prima di tutto, quello che si riferisce alla posizione di Adler e alle elezioni all'introduzione del suffragio universale e uguale, perché questa era la grande differenza, certo l'unitato suffragio universale c'era già sotto Badini nel 95, non so più con precisione dove l'ho letto che Adler aveva anche ha collaborato nella delimitazione dei collegi elettorali. E qui c'è un fatto interessante, credo, che proprio nelle zone dell'Italia, come del resto anche in Galizia, ci fu conservato un resto di vantaggio per quelli che pagano più tasse, cioè per i polacchi in favore agli ucraini, o ruteni come si diceva allora, e per gli italiani a favore dei croati. A favore degli italiani. Questo vorrei sapere, non so se Adler abbia avuto una parte anche in questo favoreggiamento degli italiani come quelli che pagavano più tasse a favore degli slavi. Poi vorrei solo sottolineare il fatto che Ellenbogen, che ha incontrato Mussolini nell'autunno del 14 alla redazione ancora del Avanti, è rimasto poi per tutto il periodo il nemico amico, il nemico intimo, si può dire, il nemico intimo di Mussolini, che non lasciava perdere nessuna occasione per attaccare Mussolini, Duce ormai è capo del governo, dal Parlamento o dai giornali austriaci, e infatti Mussolini sempre domandava cosa fa il mio nemico numero uno, e questo è rimasto una inimicizia intima, si può dire, dal 14. E ultimamente vorrei forse sottolineare anche il fatto che Pittoni, almeno finché era possibile salvare questa concezione di uno Stato plurinazionale, pur con tutta l'idea di doverlo democratizzare, federalizzare, e lui per un po' di tempo, noi abbiamo già parlato oggi al pranzo, è rimasto fino a un certo punto fedele alle idee di Renna e un po' anche di Adler, che considerava lo Stato plurinazionale più progressivo che non stati nazionalisti borghesi, e in questo, pur essendo non comunista, aveva lo stesso atteggiamento che poi nel novembre del 3 novembre 1918 assumono i bolscevici russi, che mandano un appello che viene completamente passa inosservato, si può dire, dai popoli durante la dissoluzione dell'Austria-Ungheria, un appello di mantenere, anche per ragioni della Russia, che in quel momento aveva anche il problema delle loro minoranze nazionali, di mantenere quella compagine supranazionale. E vorrei domandare se lei crede che forse il fatto, sottolineato anche da Valiani, che i triestini passano tutti al comunismo, abbia anche, certamente no, le questioni erano prima, anzitutto l'opposizione alla guerra, eccetera, questo sono convinto, ma è curioso che abbiano lo stesso atteggiamento, perché i socialisti triestini avevano al tempo di Pittoni, sotto la guida del Pittoni, conservata l'idea, diciamo, contro gli stati nazionali borghesi, sciovinisti, e il comunismo poi assume in quel periodo lo stesso, in quel periodo, sottolineo, lo stesso atteggiamento. Ara. Io qualche osservazione brevissima e poi mi scuso perché di Agnelli ho sentito solo le parole finali e il riassunto in traduzione. Dunque, anzitutto sul socialismo triestino forse si può fare una piccola aggiunta, Agnelli ne ha parlato stamattina, ho avuto anche la cortesia di citarmi, sulle posizioni di Pittoni e di Puecker. Cioè, la differenza tra questi due leader socialisti di peso politico molto diverso, perché Pittoni naturalmente ha un seguito, un'influenza all'interno del partito molto maggiore di quella di Puecker, è una differenza che si manifesterà in maniera massiccia negli anni della guerra, anzi incomincia negli ultimi mesi del 1915, che precedono l'ingresso in guerra dell'Italia, marzo e aprile, e sono i mesi in cui il fondo Puecker svolge una funzione di trade union fra i vecchi capi liberal nazionali, che ormai in molti casi hanno già passato il confine, e Trieste, Puecker, che può muoversi più agevolmente di quei liberali nazionali che sono rimasti a Trieste, finisce con l'essere un po' il difensore di istituzioni italiane, soprattutto scolastiche e culturali, le scuole che caratterizzavano la città di Trieste. E però il dissenso fra Puecker e Pittoni è più antico, ci sono almeno due episodi di una certa importanza. Quando il Consiglio Comunale di Trieste, su proposta della minoranza consigliare slovena, deve pronunciarsi su un sussidio per le istituzioni scolastiche della Lega Cirillo Metodio, che era motivato col fatto che, siccome il Comune italiano di Trieste negava delle scuole pubbliche agli sloveni nella città, occorreva che da parte del Comune si finanziassero queste istituzioni private, mentre il Partito Socialista, il gruppo consigliare socialista, appoggia la proposta slovena, Puecker personalmente si dissocia dal partito con una motivazione che in fondo è di sapore quasi irredentistico, cioè dice che le scuole italiane in Dalmazia della Lega Nazionale soprattutto quella di Spalato, vedono rifiutato qualsiasi contributo da parte delle municipalità slave. E quindi gli italiani a Trieste, dove sono in maggioranza, devono fare la stessa cosa, sinché anche città amministrazione croata non daranno contributi alle scuole delle regioni. E poi nel dibattito del gennaio del 1913, che è quello a cui Agnelli si riferiva, si vede abbastanza chiaramente la diversità della posizione di Poecker e di Pittoni e l'attenzione di Poecker ai problemi della popolazione italiana di Trieste, intesa in, come problemi culturali, cioè rifiuta un'impostazione politica la difesa politica della maggioranza, che era invece postulata dalla maggioranza, e parla però anche di toni che oggi forse ci paiono fin troppo enfatici della necessità di difendere sotto un profilo culturale la maggioranza italiana a Trieste. In questo forse addirittura ci si potrebbe rifare ad una tradizione socialista austriaca, rendo la culturnazione, quindi un'insistenza su alcuni aspetti della realtà culturale della nazione. E d'altra parte però Poecker in certi momenti va anche più in là, quando dice che Trieste deve rimanere quella che è sempre stata, una città a maggioranza italiana, a minoranza slovena. Quindi una posizione che è molto lontana dall'internazionalismo dei suoi compagni socialisti. Per le elezioni del 1907 si potrebbe forse aggiungere, Agnelli ne ha già parlato, dell'importanza del rapporto tra sloveni e socialisti in queste elezioni, il confluire in dubbio di voti sloveni sulla lista meno lontana, sulla lista che garantiva la difesa di diritti scolastici, quindi è un problema di notevole importanza. E sono delle elezioni che il Liberal Nazionale hanno sbagliato completamente, con tutta una serie di errori, come presentare il podestà di Zara, gli 8 Trieste, credendo addirittura di poter avere tutti i seggi e da poter essere così generosi da assicurare addirittura una rappresentante agli italiani dalmati. Comunque quello che direi molto importante è questo problema di un forse un nuovo rapporto tra Slovenia socialisti e Trieste. E un'ultimissima osservazione, se mi è permesso, sulla domanda che ha fatto il professor Lill. In genere le grandi compagnie di assicurazione triestine, forse più ancora le generali, che non la Riunione Adriatica di Sicurtà, hanno avuto libertà d'azione assoluta in Italia, anche perché dopo il 1866, credo proprio sotto il profilo sociale, le assicurazioni generali hanno avuto la denominazione di assicurazioni generali austro-italiane, con una sede in territorio italiano, Venezia, una direzione generale per l'Italia, e quindi la possibilità di svolgere indisturbati questo lavoro. E credo adesso le generali stanno preparando un volume per i 150 anni della compagnia nel 1881, che se si pensa che il primo volume è uscito nel volume per il centenario, quello per il centenario curato da Stefano, 1931, quindi in un periodo in cui si dovevano sottolineare molto le benemerenze redentistiche patriottiche della compagnia, della città, e forse questo secondo volume potrà contribuire, se perlomeno verrà affidato a persone competenti, forse a chiarire anche certi problemi dell'attività non solo economica finanziaria, ma addirittura magari redentistica della compagnia. E le lacune che ci sono già nel volume del generale del 31 sono ancora più massicce nel volume per il primo centenario della RASC del 1938, quindi in un anno ancora più difficile, soprattutto perché in questo volume venivano naturalmente trascurate completamente le origini, per così dire, con un brutto termine, ebraiche della compagnia, che ormai nel 38 stavano male, non so come dire. Grazie. Sì, una particolare cosa. Dopo che Bagliani ha ricordato la versione dei socialisti triestini, contro la guerra mi è venuto in mente un episodio che il professor Agnelli non ha citato nel suo relazione, ma ben conosciuto, cioè i contatti tra D'Annunzio e i socialisti triestini. E a me sembra, che può essere interessante per chiarire quale legame concreto avevano i socialisti triestini con il Partito Socialista Italiano e diversi correnti, per cui comunisti, per rivoluzionari. un bel momento cruciale. Also, finito, keine Fragen mehr. Professor Agnelli, la prego. Allora, io ringrazio coloro i quali hanno contribuito a arricchire il quadro che io ho cercato di fornire, e ringrazio molto calorosamente la dottoressa Lidia Battisti per avermi fatto conoscere questa lettera di Gerin a Battisti, che prova la fondatezza di quello che mi aveva detto il vecchio militante, secondo cui quel certo manifesto del Partito Socialista Triestino diffuso nel 1895 era di pugno di Gerin. Gerin, che aveva accettato in pieno la posizione di Battisti, di modo che così come Adler dovette intervenire per la sua funzione di mediatore tipico che ha ricordato il professor Vandruska, così come la mediazione nei confronti di Uche Karigerin fu dovuta al brutto carattere di Gerin, questo mi fa pensare che probabilmente le contese che portarono alla fine dell'avvenire furono contese dovute ad asprezze di temperamento e non a differenze di orientamento politico fra Gerin e Pichel. Io devo fare una precisazione. Io qui mi sono sforzato soprattutto di vedere quale fosse il fondamento comune dei socialisti delle varie sezioni costituite dal partito austriaco. Perciò io ho insistito soprattutto sui motivi comuni. Naturalmente questo non toglie che la possibilità di una alternativa si presentasse in tutte le province dell'impero. Ossia, non si può dimenticare che la risoluzione del congresso di Brünn viene 2 anni dopo la risoluzione del congresso di Londra dell'Internazionale, in cui si proclama il principio dell'autodecisione dei popoli. Di modo che c'è sempre una determinata equivalenza di posizioni. Perché? Perché si sostiene che in realtà i socialisti dovrebbero battersi per il principio dell'autodecisione, anche quando questo principio implichi la costituzione dello Stato nazionale, e la posizione secondo cui si ritiene invece che lo Stato plurinazionale vada considerato come uno Stato di avanzamento rispetto allo Stato nazionale per la realizzazione di un più solido legame internazionale. Ora, in realtà, questa possibilità di optare per entrambe le soluzioni è costante nel movimento socialista dell'impero. Certo è che se da storici rigorosi ci preoccupiamo non soltanto di andare alla ricerca delle giustificazioni teoriche, ma ci preoccupiamo di vedere quale fu la posizione che ottenne il consenso degli organizzati, è chiaro allora che dobbiamo riconoscere che la maggioranza degli organizzati era a favore dello Stato plurinazionale. Mi riferisco alla maggioranza degli organizzati nell'impero intero. Non solo, questa opzione era in funzione del pacifismo che costituiva la bandiera del socialismo dell'impero, ma che era un pacifismo che e non era immune da critiche, e quindi è importantissimo qui che si sia ricordato il significato della posizione assunta da Battisti alla vigilia del convegno del 1905. Io sono contentissimo degli interventi che ci sono stati a questo riguardo, perché hanno coperto un vuoto che io ho lasciato, ne avevo scritto, ma dato che poi qui in realtà ho trattato soltanto alcuni dei temi della relazione, avevo ritenuto di preferire che non si tacesse su aspetti meno noti, e ho ritenuto che fosse preferibile sacrificare quelli che ritenevo più noti. Resta inteso che convengo anch'io con l'opinione di coloro i quali affermano che la prima presa di posizione in cui si afferma che le possibilità di una modificazione rivoluzionaria in Austria non sussistano e che quindi si deve scegliere per l'altro corno del dilemma, le prime posizioni sono proprio quelle assunte da Battisti nel 1905 e qui non faccio altro che citare Valiani, e le posizioni assunte dalla Democrazia Sociale Italiana, cioè dal gruppo Mazziniano di Trieste che si costituisce nel 1906. Sono le prime manifestazioni critiche proprio per quel che riguarda il permanere dello Stato plurinazionale, ma voglio dire che queste sono alternative che vengono proposte a seconda della situazione politica che si sviluppi in un senso oppure nell'altro. Se i socialisti austriaci saranno capaci di esercitare una azione all'interno, allora sarà possibile anche impegnarsi in direzione antimilitaristica. Diversamente rimarrebbero squilibrate le situazioni d'Italia ed Austria. Quindi, detto questo, passo ai singoli interventi. Dirò che per rispondere al dottor Trezzi, che c'è una connessione molto stretta fra quello che è il movimento rivendicativo e quelle che sono le prime manifestazioni delle cooperative triestine, sostenendo però appunto quello che pare di aver già messo in luce, che si tratta proprio di cooperative di consumo e che quindi hanno la funzione di sostenere il proletariato nelle sue lotte. Da questo punto di vista, la organizzazione delle cooperative ha la stessa funzione che ha il sindacato, così come è concepito all'austriaco, o se preferite alla tedesca, il sindacato con alti canoni sociali, il quale è in grado di sostenere molto concretamente le lotte dei lavoratori. Cioè, nel momento in cui viene proclamato lo sciopero, il sindacato è in grado di versare contributi in percentuale molto rilevante, che arriva all'80-90% del salario, ed è in grado di versarli per settimane, quando non mesi. Possiamo citare alcuni casi in cui, di fronte alla proposta di scioperi alla italiana promossi dal sindacato di Pannini e che si concludono molto negativamente, la commissione delle organizzazioni professionali può dare la dimostrazione della solidità ben diversa della loro centrale, la quale interviene con contributi che sono stati accolti dall'intero impero, perché poi il comitato centrale del Gewerkschaftsbund sosteneva con i fondi che erano comuni anche le agitazioni dei lavoratori delle zone più povere e in molti casi i contributi venivano direttamente da Vienna e consentivano questa lotta più intransigente. Quindi legame del movimento cooperativo col movimento rivendicativo, ma sulla stessa falsariga di una particolare solidità e di un sostegno molto concreto alle lotte che erano in corso. Influenza della cooperazione sul movimento socialista dal punto di vista teorico. Dipende da quello che intendiamo quando parliamo di punto di vista teorico. Grossi contributi di teorizzazione non ci sono, ma è chiaro che coloro i quali insistevano sulla capacità di autogestione che si mostrava alla guida delle cooperative ritenevano che in fondo preminente nell'organizzazione socialista fosse quello che Cabrini aveva definito lo spirito autodidattico del socialismo tedesco. E difatti Pitoni, posso dirlo per testimonianza di familiari, riteneva che un'autentica rivoluzione capace di trasformare completamente il sistema dei rapporti di produzione in modo che ci fosse anche una devoluzione di potere politico, era una cosa molto lontana, e riteneva che ancora per molti anni il socialismo dovesse insistere sopra questo compito educativo. È vero, per Pittoni il problema della conquista del potere politico era un problema che veniva molto, molto differito nel tempo. Quindi se anziché usare quell'espressione punto di vista teorico in senso stretto, cerchiamo di vedere come questo si traduce in un orientamento, devo dire che in effetti l'insistenza sopra le cooperative e tutte le energie devolute allo sviluppo del movimento cooperativistico rispondono proprio a questa visione strategica di Pittoni, che riteneva che la rivoluzione dovesse essere compito di lungo momento e quindi un problema di tempi lunghissimi. Ora, così come ho fatto ammenda per aver trascurato completamente il congresso del 1905, adesso dovrei fare completa ammenda per aver trascurato l'incontro del 1911, per aver fatto solo qualche rapido accenno ai dibattiti bellici. Ma questo mi consente di tentare di formulare adesso una serie di risposte ai vari interventi, di cui sono molto grato, formulate dai professori Corsini, Valiani e Calì. Ora, in effetti, il convegno del 1905 ha sullo sfondo il problema del crescente militarismo, ma si propone di essere un contributo allo sviluppo della questione nazionale. Da questo punto di vista confermo qui quello che prima ho detto implicitamente quando ho manifestato il giudizio, sul quale sono pronto a discutere, secondo cui il solo contributo di approfondimento alla questione nazionale che venga dai socialisti adriatici è quello di Damocles. Non ritengo che ci sia un grosso approfondimento nella pur bellissima relazione che Pittoni presenta a questo convegno, perché in questo convegno essenzialmente Pittoni si preoccupa di mettere in luce l'insufficienza, la falsità della posizione liberale nazionale e propone semplicemente le grandi linee dei deliberati congressuali socialisti. Ma è molto importante che noi incominciamo a vedere chi sono gli interlocutori a questo congresso. Certo, si potrebbe dire che lo studio dei socialisti italiani dell'Austria serve anche a misurare la portata dell'internazionalismo del socialismo austriaco, ma serve anche a porci il problema della capacità dei socialisti italiani di darsi una politica estera. E allora è molto significativo proprio andare alla ricerca degli uomini che partecipano a questi convegni. E allora se noi andiamo a vedere chi sono i partecipanti a questi convegni, vediamo che ci sono alcuni nomi che ricorrono costantemente. Vediamo Bissolati al convegno del 1905 e vediamo Bissolati nel 1911 all'incontro preliminare al convegno che poi non si fece per la guerra di Libia, che quello sì avrebbe dovuto vertere soprattutto sulla lotta al militarismo. Vediamo Rigole è a Trieste nel 5 e nell'11. Nel 5 sono presenti anche Lerda, Marangoni e Rondani, che era l'amico biellese di Rigola. Nell'11 vediamo Morgari e Ciotti, e Morgari sarà il dirigente socialista italiano incaricato dall'Internazionale nel 1914 di tentare insieme a Pittoni un convegno italo-austro-francese per dirimere le controversie insorte tra Francia, Italia ed Austria, e anche quello sarà un convegno per il quale non si passerà nemmeno agli atti preparatori. Ma allora, anche la presenza di questi nomi è già di per sé molto significativa. Vediamo quali sono gli esponenti del partito italiano che hanno una certa sensibilità per il problema, così come è significativo che da parte austriaca vediamo la costante presenza di Ellenbogen, vediamo la costante presenza di altri uomini che avevano avuto un ruolo rilevantissimo alla definizione della questione nazionale, Edwin Christan, il primo il quale al congresso del 1899 sostenga la tesi dell'autonomia personale e non territoriale. Christian in fondo precede la teorizzazione di Renner. Vediamo poi al convegno del 1911 il giovanissimo trentenne Otto Bauer, autore sì già della Nationalität und Frage, ma allora per la prima volta presente a Trieste. Ora direi che anche questo ha una notevolissima importanza, ma ha una notevolissima importanza perché in fondo vengono mantenute aperte tutte quelle prospettive che discendono dalla impostazione della questione in termini di principio. Devo dire che la stampa socialista triestina, per esempio, dopo aver a lungo taciuto sopra gli approfondimenti teorici della questione nazionale, non mi risulta che il libro di Bauer abbia avuto la minima propaganda a Trieste. Viceversa, il laboratorio comincia a riportare tutti i contributi su da Kampf a partire però dal 12-13. Quando c'è Vivante. A partire dal momento in cui Vivante pubblica il Redentismo Adriatico. Pubblica il Redentismo Adriatico, ma pubblica il Redentismo Adriatico avvertendo chiaramente che il suo contributo è un contributo il quale si preoccupa soprattutto di dare la risposta politica ad alcuni problemi immediati i quali si sono fatti vivi negli ultimi anni. Cioè Vivante opta per la soluzione trialistica perché ritiene che si stia marciando verso l'unità dei popoli slavi del sud e ritiene che delle due prospettive, quella di un'unione dei popoli slavi del sud in uno stato costituito solo da slavi, ma uno stato che avrebbe il suo centro nella Serbia, culturalmente ed economicamente arretrato, e una prospettiva di unificazione nell'ambito dello stato plurinazionale asburgico, sia quest'ultima a prevalere. Ma si preoccupa anche egli della necessità di mantenere una certa funzione a Trieste. Nell'ultima pagina di Redentismo Adriatico Vivante ricorda che i redattori del giornale pre-48esco triestino, La Favilla, avevano parlato di Trieste porto della Slavia, cioè veramente più che i giornalisti della Favilla era stato Cantù che voleva pubblicare questo sulla Favilla e la censura non gli permise poi uno dei passi della Favilla censurati è proprio questo di Cantù. Lo ricorda soltanto, ma anche Vivante ha la preoccupazione di quello che può rappresentare la soluzione trialistica, di modo che Vivante è uno dei dirigenti i quali maggiormente si adoperano affinché il Partito Socialista formuli la proposta della città-stato che consenta la sopravvivenza economica e culturale di Trieste nell'ambito dell'impero plurinazionale. In questo quadro, allora, direi che la posizione che viene affermata dal Partito Socialista è una posizione che risente parecchio di Vivante e in cui, certo, Quaker porta il suo contributo personale, mentre in questo momento non c'è una specifica presa di posizione di Pittoni, ma non risulta nemmeno che Pittoni dissenta da quelli che sono gli atteggiamenti presi in sede di Consiglio Comunale. Certo, in Irredentismo Adriatico, fin dalle prime pagine, Vivante dice, in queste pagine, il fenomeno irredentistico non si guarda da una prospettiva internazionale socialista, anzi è possibile che qualche risultato della ricerca faccia corrugare il sopracciglio agli assertori troppo rigidi del taglio netto fra le classi, nonché ai bigotti di un materialismo storico che non rispecchia d'altronde affatto il pensiero sintetico e definitivo di Marx e dell'Engels. Questo mi fa ritenere che Vivante si preoccupasse non tanto di certe reazioni dei socialisti italiani, quanto di reazioni di socialisti all'interno del suo partito che avvertivano che proprio le tesi esposte in Redentismo Adriatico non rientravano a rigore tra quelli che erano i fondamenti programmatici del partito. Dico questo perché, pur essendo Vivante uno dei personaggi più rilevanti e più notevoli del socialismo triestino, e pur essendo Il Redentismo Adriatico un libro che non soltanto io vedo sempre con piacere quando viene ripubblicato, ma o quando diventa oggetto di approfondimento fra gli studiosi, ma sono anche molto contento quando vedo che Il Redentismo Adriatico riesce a ispirare letterati come la Cialente, dando occasione alla scrittura di nuovi romanzi. Però riterrei che questa precisazione data da Vivante nella prefazione del suo libro sia molto importante tanto più che ci sono stati parecchi usi strumentali del libro di Vivante, usi strumentali nei confronti dei quali bisogna avere, direi, molta, molta cautela. È chiaro però che quando i giochi sono fatti, le possibilità di scelta sono soltanto due: o si opta per il permanere dello Stato plurinazionale, o si ritiene che anche da un punto di vista socialista il solo avanzamento sia consentito dalla Costituzione degli Stati nazionali. Quindi, per carità, io non voglio affatto dire che non ci siano alcune scelte ben precise che maturano a partire dal momento in cui la guerra è inevitabile. Voglio però ricordare che anche Battisti, che ormai aveva fatto la sua scelta, teneva presenti le ragioni dei socialisti, i quali consideravano ancora la prospettiva dello Stato plurinazionale. E voglio ricordare come tra coloro stessi i quali sostenevano la posizione di Pittoni, la scelta venisse ad essere modificata a partire dallo scoppio della guerra, che per molti fu rivelativo di una situazione nuova che non consentiva più la scelta di campo fatta in condizioni completamente differenti. Da questo punto di vista, quindi, certo, è estremamente importante rifarsi a quello che accade negli ultimi mesi di guerra. E negli ultimi mesi di guerra è vero che Pittoni si rifiuta di partecipare al congresso di Praga, ma è anche vero che egli si rifiuta di partecipare al congresso di Praga perché ritiene che questo congresso sia un congresso nazionalista al quale la partecipazione socialista non può che essere equivoca. E soprattutto per quel che riguarda Trieste, Pittoni avverte che a quel congresso si lancerà la parola d'ordine dell'incorporamento di Trieste nella Jugoslavia e quindi mette in guardia i suoi compagni dal favorire un avanzamento di pretese di questo tipo. È vero anche che Puecker, che invece sul lavoratore risponde ritenendo che i socialisti debbano partecipare al congresso dei popoli oppressi, risponde criticando severissimamente la posizione di Renner e dei socialisti di maggioranza cui Pittoni aderiva. E Puecker in questi articoli dichiara di far proprio quello che è il programma der Linken, il programma della sinistra socialista elaborato da Bauer, ritornato dalla prigionia in Russia nel novembre 1917, programma in cui Bauer dichiarava di accettare l'altra alternativa. Cioè Bauer riteneva che in fondo fosse conforme al programma socialista battersi sia per il mantenimento dello Stato plurinazionale sia riscattare le nazionalità attraverso la costituzione dello Stato nazionale. È vero che politicamente Bauer, anche se alla vigilia della guerra mondiale ricorda questa equivalenza di posizioni, però Bauer fino a quando non scoppia la guerra è sulle posizioni di Renner, mantenimento dello Stato plurinazionale. L'atteggiamento muta a partire dal 17 e a partire dal 17 Puecker sostiene nelle sue polemiche con Pittoni la validità della impostazione di Bauer. Dice: ormai le scelte sono fatte, bisogna schierarsi a favore dello Stato nazionale. Ed è anche vero che a partire da questo momento Puecker ritiene che il programma fondamentale sia quello della applicazione più completa del programma di Wilson. All'applicazione del programma di Wilson Pittoni non crede per niente. Qui la distinzione, proprio la distinzione fra coloro i quali auspicano una conclusione della guerra senza vincitori e senza vinti e quelli che ormai ritengono che la guerra avrà determinati vincitori. Quindi tutto lo sforzo di Pittoni deve essere visto in questa direzione. Come fare in modo che vadano difesi certi valori nazionali, certo nel senso dell'autonomia culturale di impostazione renneriana, ma ricordando quale rischio corre a Trieste una volta che non ci sia più il suo hinterland e una volta che possa essere vanificata la sua funzione economica. Lo sforzo di Pittoni è quello di fare in modo che non vadano vanificati questi legami. Pittoni, certo, fino all'ultimo spera che si costituiscano magari stati nazionali, ma con qualche vincolo federale, e spera che in questo nesso possa inserirsi la Repubblica Adriatica. Ma giustamente il professor Corsini ricordava che Pittoni e Oliva si distinguono da Conci e da quella che è la posizione del club italiano, ma si distinguono anche da Faidutti e Bugatto, perché Faidutti e Bugatto votano contro. In realtà Pittoni e Oliva si astengono in quanto ritengono che un problema così delicato non possa essere affrontato se prima non si sono consultate le basi. Non solo si dichiarano a favore di una scelta mediante l'autodecisione, ma ritengono che sia necessario, anche per esprimere questo voto, una consultazione di base. Quindi l'atteggiamento è estremamente diverso e soprattutto mette in luce come ci sia non solo un tentativo di difendere una tradizione, ma anche lo sforzo, ormai abbastanza difficile, di mantenere aperte determinate prospettive. Quindi, certo, Pittoni lancia questa proposta, ma il discorso del 25 ottobre è un discorso molto bello perché mostra quale possibilità di sviluppo era stata concessa, era stata offerta dal permanere di questo Stato plurinazionale, ma Pittoni ormai si rende conto che bisogna affrontare la nuova realtà. All'indomani della conclusione del conflitto addirittura accetta il compito che gli è affidato dal governo italiano di farsi tutore dei beni italiani in Austria e di vedere come si può provvedere al rimpatrio dei prigionieri, ed è un compito che egli accolse con estremo favore e che invece dovette lasciare non per il suo passato ma per la delibera della direzione del PSI, che riteneva incompatibile la collaborazione di un socialista con l'autorità di governo. E altra cosa che usciva completamente dalla mentalità di Pittoni. Però questo tentativo di costituire la Repubblica Adriatica, che in Pittoni aveva questa motivazione, fu visto invece da quelle che erano le giovani generazioni del socialismo triestino, cioè i bolscevichi di guerra, che erano coloro i quali avevano aderito al partito in tempo di guerra. Si capisce, l'Austria non mandava i triestini sul fronte occidentale, li mandava sul fronte orientale, e sul fronte orientale questi avevano avuto un'esperienza di prima mano della rivoluzione russa. Questi giovani tornavano e il loro programma era il programma dei soviet. Ora, questi giovani, quando pensavano alla Repubblica Adriatica, non pensavano affatto alla possibilità di mantenere il carattere italiano e la funzione economica di Trieste, pensavano a un soviet da aggiungere agli altri soviet, pensavano alla possibilità di stabilire un nesso con l'esperienza ungherese, con l'esperienza bavarese, con l'esperienza russa, eccetera. Quindi ecco che queste motivazioni di Pittoni, che hanno un significato nell'aula parlamentare, finiscono per avere un significato molto diverso, soprattutto perché i giovani socialisti di Trieste sfruttano questo atteggiamento nella polemica feroce che muovono nei confronti di Puecher, a tal punto che sarà proposta l'espulsione dal partito di Puecher, colpevole di socialpatriottismo. Ci sarà una pronuncia del comitato direttivo della sezione nel 1920 che dirà che, sia pure con qualche frase imprudente, però il compagno Puecher è rimasto fedele ai principi del partito. C'è la devoluzione del problema all'assemblea stessa, perché si rifiuta la soluzione del comitato direttivo, e in questa assemblea già inflazionata, il Partito Socialista non aveva mai conosciuto assemblee come questa in cui si tenne il processo a Poetri di 400 partecipanti, era 220 contro 180 o circa, devo controllare i numeri, si schierano, ho qui le verborfere quindi posso controllare, e si schierano a favore della permanenza di Poecker, il quale continua la sua azione nel partito, mentre, come ha ricordato Valiani, Pittoni, di fronte alle accuse che gli fanno di rimanere legato alla Seconda Internazionale, non viene a compromessi, lascia la segreteria del partito, lascia la direzione del lavoratore, lascia la direzione delle cooperative operaie. Alcuni compagni cercano di camuffare questo abbandono come dovuto a condizioni di salute non buone, gli danno una specie di congedo di malattia di 4 mesi, però quando Pittoni si ristabilisce non vuole avere nulla a che fare con la maggioranza massimalistica e bordighistica e va a dirigere le cooperative di consumo di Milano. Ora, quindi, ripeto, io non voglio certo vanificare tutte le differenze e ritengo che come storici dobbiamo soprattutto vedere le scelte politiche, mentre io qui per ragioni così di polemica e un po' per deformazione professionale ho voluto vedere le diverse compatibilità programmatiche e ideologiche e ho voluto mostrare come in fondo le differenze fra i socialisti italiani dell'Austria non fossero molto diverse dalle differenze che i socialisti austro-tedeschi avevano tra di loro. C'è una corrente Renner, c'è una corrente Bauer. Quindi credo che da questo punto di vista ci possiamo considerare abbastanza d'accordo e non ci sia possibilità di equivoco. Naturalmente ringrazio il professor Corsini per la precisazione che gli ha fatto circa la condizione del Trentino, che faceva parte dell'Antirol, mentre Trieste era appunto la città che aveva un consiglio comunale che valeva anche come dieta, con poteri normativi e quindi un certo discorso. Per quel che riguarda il problema che è stato posto da Leonardi, io sono d'accordo. Quando ho specificato in sede di replica qual è lo sviluppo delle cooperative, ma del resto credo di averlo detto anche questa mattina, le cooperative socialiste nella zona adriatica sono soprattutto cooperative di consumo. Soltanto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale si incomincia a cimentarsi con le cooperative di produzione e non si riesce a penetrare nelle campagne proprio perché ci sono le fortissime cooperative cristiano-sociali nel Friuli che fanno capo al partito di Fainuti Bugatto. Quindi è chiaro che qui la situazione presenta le stesse caratteristiche. Per quel che riguarda il problema delle due anime, è certo che Pischel, almeno per lungo tempo, manifesta questa propensione, tanto è vero che al congresso di Trieste del 1905 lo troviamo presente, all'incontro del 1911 anche, però non dimentichiamo che quando a Trieste vengono inaugurate le nuove sedi riunite, la sede del Partito Socialista in via Madonnina, uno degli oratori ufficiali è Cesare Battisti, quindi il contatto fra socialisti triestini e socialisti trentini non avveniva soltanto attraverso Pischel, e devo ricordare anche l'importanza del tentativo scissionistico del Barni, che non viene sostenuto da Pischel e che trova proprio Pittoni a sostegno della posizione del partito austriaco. Ora, come ho già ringraziato la dottoressa Battisti per quel che riguardava il per me prezioso chiarimento riguardo Gerin, sono completamente d'accordo anche per quel che riguarda l'originalità della formazione di Battisti, il mio riferimento ai coetanei era il riferimento a una generazione socialista che si saldava con alcune esperienze democratiche risorgimentali e post-risorgimentali, e quindi la mia era una indicazione di affinità, di sentire comune che mi sembrava capace di fornire un'indicazione come quella che avevo dato citando le argomentazioni di Domokos, e come ho prima citato alcuni passi di Domokos, avrei potuto citarne degli altri, quando addirittura Domokos conclude il volume su Trieste dicendo che la riforma dell'impero in Austria, la battaglia internazionale dei socialisti austriaci, sarà la battaglia di Garibaldi e Cattaneo. E nello stesso volumetto insiste proprio nel presentare la validità della posizione federalistica, richiamandosi non solo a Cattaneo, ma anche a Giuseppe Ferrari e anche a Garibaldi. E quindi credo di aver a questo modo anche dato ragione quindi delle cortesi osservazioni che sono state rivolte proprio a proposito della posizione di Battisti nel 1905. Io sono d'accordo con Valiani, sono d'accordo con Calini e ritengo che in effetti la differenziazione maggiore tra i due socialismi italiani dell'Austria verte proprio su questo radicale, incondizionato pacifismo che caratterizza i triestini e invece sulla prospettiva della guerra, che però non viene vista soltanto come guerra imperialistica, ma viene vista come necessità che si propone a partire dal momento in cui un proletariato non riesce a cogliere le occasioni rivoluzionarie. Se il proletariato non è in grado di cogliere le occasioni rivoluzionarie, e questa è la critica che Battisti muoveva ai socialisti austriaci, la soluzione non sarebbe stata che quella. Ora, si capisce che al termine del conflitto mondiale, chi non aveva fatto una scelta a favore di uno dei contendenti mirava a condannare non soltanto coloro che si erano schierati per una parte, ma mirava a condannare tutti coloro i quali avevano proposto un pacifismo inadeguato. Ecco quindi che il solo pacifismo che può sembrare adeguato è il pacifismo che viene proposto dai bolscevichi. Professor Vandruska, devo dire che purtroppo, per quanto sia in grado di mostrare come furono costituite le circoscrizioni allo scopo di mantenere una certa presenza nazionale al Parlamento, non sono in grado di dirgli se Adler era intervenuto in un senso o nell'altro. Posso dirgli che quando nel 1907, proprio l'anno in cui i socialisti triestini hanno questa trionfale affermazione, a Pola il deputato uscente liberale Rizzi non riesce ad essere eletto in primo scrutinio, si deve procedere al ballottaggio e Pittoni fa votare i socialisti per Rizzi, perché ritiene che dato che il collegio era riservato agli italiani, i socialisti dovessero appoggiare il liberale nazionale Rizzi contro il croato. Potrebbe darsi che nella delimitazione dei collegi i socialisti italiani dell'Austria avessero chiesto la collaborazione di alcuni compagni viennesi. L'altra domanda del professor Vandruska, è certo, a un determinato momento quella che era stata l'opzione per lo Stato plurinazionale mantenuta dal socialismo maggioritario triestino, anche quando non si poté mantenere più nelle vecchie forme, fu ripresa da questi bolscevichi di guerra nella prospettiva che era stata proposta dal Partito Sovietico. E quindi a partire da questo momento si chiese in un primo momento che si esperisse ogni sforzo per mantenere in piedi lo Stato plurinazionale, e anche quando questo sforzo si vide vano perché tutte le borghesie nazionali volevano costituire il loro Stato nazionale, si voleva mantenere la prospettiva di un possibile collegamento fra le varie rivoluzioni in atto e quindi un possibile collegamento con la rivoluzione ungherese e così via. Da quello che ho detto risulta che per il problema posto da Ara, io non vedrei in quella certa occasione un conflitto fra Pittoni e Puech. Ara invece ha ricordato molto giustamente l'atteggiamento che viene assunto in ordine al problema dei sussidi alle organizzazioni scolastiche non statali. E poiché si era spinto anche più là, aveva votato a favore dei sussidi alla Lega Nazionale, ma anche in questa occasione si dichiarò che il suo era un voto personale. Per quel che riguarda le elezioni del 1907, non credo che alle elezioni del 1907 i socialisti abbiano potuto disporre di voti sloveni al di là di quelli che erano i voti dei socialisti organizzati nel partito dei socialisti del slavi del sud dell'Austria. Perché? Perché, citiamo i numeri, nel primo collegio Pittoni riporta 2902 voti contro 1645 di Menesini, il liberale nazionale, 911 di Mandic, lo sloveno nazionale, e 209 di Vattovac, cristiano sociale. Nel secondo collegio prende più voti di tutti il liberale nazionale Pitacco, 3121, poi Skabar, socialista, con 1792, lo sloveno Gregorin con 1614 e il cristiano sociale Dejan con 664. Viene eletto Skabar perché i liberali nazionali rifiutano di partecipare al ballottaggio. Nel terzo collegio viene eletto Pannini con 2178, Zigliotto 1949, Ribar, lo sloveno, 660, il cristiano sociale De Pander 499. Nel quarto collegio Oliva 1127, Mazzarana, liberale nazionale, 997, terzo il cristiano sociale Dompieri con 505, ultimo lo sloveno Slavi con 485. Invece il problema riguarda le elezioni del 1911. Nel 1911 nessuno viene eletto in primo scrutinio, o meglio, no, Pitacco sì, Pitacco nel terzo collegio viene eletto in primo scrutinio, si fanno i ballottaggi e gli sloveni nel ballottaggio votano per i socialisti. Questo sì. Quindi non vedrei ancora questo problema nel 1907. Il problema esplode alle amministrative del 1909 ed è la causa della scissione di Silvio Panini. Per quel che riguarda il problema posto dalla dottoressa Hesse, e abbiamo alcune testimonianze. Abbiamo la testimonianza di Mario Malatesta, che era alla redazione del Lavoratore quando capitarono gli emissari di D'Annunzio. La testimonianza è in appendice al libro di Giuseppe Piemontese, Il Movimento Operaio a Trieste, e posso a mia volta riferire sopra una testimonianza personale di un altro dei redattori del Lavoratore allora presente, Enrico Bercè, che mi ha raccontato di questa venuta dell'emissario di D'Annunzio, Koselski. Ma che cosa si cercava di fare in quel momento? In quel momento D'Annunzio aveva intorno a sé uomini provenienti dal sindacalismo rivoluzionario, come Alceste De Ambris, che è padre in gran misura della Carta del Lavoro, perché se ci sono alcuni articoli che sono di indubitabile penna d'annunziana, l'ispirazione della Carta del Lavoro in gran misura è anche di De Ambris. E c'erano gli uomini di Capitan Giulietti, della Federazione dei Lavoratori del Mare, c'era Malatesta. Ora, alcuni di questi, di fronte al declino di Pittoni, pensavano che ci potesse essere una conquista della Federazione Triestina da parte di uomini di diverso orientamento, e si faceva gran conto soprattutto di Passini, un livornese che però era a Trieste già dal 1906 e che era l'uomo di fiducia dei massimalisti, e si sperava quindi di stabilire un determinato blocco, in quanto gli si diceva che in fondo l'operazione di Fiume era rivolta contro lo Stato borghese e quindi avrebbe potuto avere anche esiti. Devo dire però che tutto si concluse con questa visita di Koselski alla redazione e che anche Passigli rispose negativamente. Quindi fu un episodio che si esaurì nel momento. Era favorevole. Tuntar e Regent erano stati eletti al congresso di Bologna membri della direzione del PSI, nonostante che la votazione dell'assemblea socialista triestina prima di Bologna avesse dato ragione alla tattica, se vogliamo, ambigua di Passini e dei massimalisti e degli ex pittoniani guidati da Oberdorfer, che non si erano dichiarati chiaramente riformisti, e avevano presentato un blocco comune, se non che, pur avendo portato a Bologna la maggior parte delle deleghe al congresso, i massimalisti gli fecero il gioco di eleggere in direzione Redent et Unter. Redent et Unter erano disposti a questa alleanza con D'Annunzio, se non che, messi, e con questo concludo, messi in minoranza al congresso di Bologna, gli uomini di Passini avevano ancora la maggioranza nella sezione triestina e quindi dissero di no agli emissari di D'Annunzio, anche se gli affidamenti degli emissari di D'Annunzio non erano poi evanescenti, perché Punta e Redent ci stavano. Grazie. Tante grazie.